9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, vi proponiamo un'altra riflessione di quelle di fondo, diciamo così, fuori dai temi caldi del giorno e dalle polemiche su cosa ci aspetta nelle piazze in vista dell'approvazione della legge Gelmini o dell'apertura di tra Casini a Berlusconi e così via. No, facciamo una riflessione di fondo su uno dei temi che ci trasciniamo oramai da un bel po' di tempo dietro di noi ogni giorno, la grande crisi economica finanziaria che si è aperta nell'estate 2007 e ne esplosa poi a settembre 2008 con Lehman Brothers, la crisi che ha avuto una risposta da parte dei paesi emergenti molto forte e quindi una crescita che è più vicina al 5 che al 4%, quindi una grande crescita planetaria ma trainata da una geografia e gerarchia completamente diversa del pre-crisi, e in tutto questo la risposta che i paesi avanzati si sono trovati a dare di fronte alla crisi dell'intermediazione finanziaria, delle banche e alla crisi della domanda e dell'export, facendo intervenire ancora una volta lo Stato, dopodiché l'avvitamento di questo eccesso di debito dello Stato che puntualmente avviene tutte le volte, i suoi sostenitori dicono che non avverrà, e poi puntualmente avviene la crisi dell'eurodebito che punisce i paesi più esposti e anche il rallentamento americano di fronte all'esplosione del debito pubblico americano che apparentemente all'inizio fa dire a tutti il cavallo berrà, inizia l'anno molto bene, se non che poi nella seconda parte dell'anno la crescita americana rallenta. Certo, resta tassi che in Italia sottoscriveremmo, insomma, superiori al 2%, ma chi si aspettava al 4% quest'anno viene fortemente deluso, perché gli americani di fronte all'esplosione di debito pubblico e alla politica monetaria che a tassi oramai meno che zero negativi comunque si inventa nuovi strumenti per ulteriormente monetizzare il debito, di fronte a questo gli americani dicono non ci fidiamo, perché questo significa che ci saranno ancora più tassi in arrivo e quindi i consumi tendono a non crescere troppo, ed ecco perché il cavallo americano si pianta. E allora abbiamo deciso ancora una volta di riflettere sul punto, ma questo grande economista che ha teorizzato di fronte alla crisi degli anni 30 tutto questo ruolo dello Stato, non è che per caso invece che essere la soluzione, come predicano tutti quelli che credono nel grande ruolo dello Stato, credono nel fatto che la legge di sé non funziona, non è l'offerta che crea la domanda ma è la domanda che crea l'offerta, e tanto più se la domanda è pubblica, non è che la colpa è veramente sua, di questo John Maynard Keynes di cui tutti continuano a riempirsi la bocca, e i più dei libri di economia dei vostri figli che studiano all'università continuano a dare la curva ISLM nei modelli, diciamo così, di SGE, per capirci, con sigle tra tecnici, quando invece probabilmente tutti gli errori e non tutte le soluzioni sono sue. Ne approfitto nel fare questa trasmissione, nel chiedere ai nostri ospiti di oggi come la pensano, ne approfitto per dire che è uscito un libro molto bello, esattamente se siete interessati a questi temi, a riflettere un po' sulla storia dell'economia e su che cosa questo significhi per le vostre tasche di contribuenti, per il vostro presente e futuro di lavoratori. È un libro edito da la collana dei libri dell'Istituto Bruno Leoni, BL Libri, si intitola Tutti gli errori di Keynes, perché gli stati continuano a creare inflazione, bolle speculative e crisi finanziarie. E ha scritto una prefazione spettacolare il professor Francesco Forte, e il libro è di Hunter Lewis, che Hunter Lewis è un economista che si è laureato ad Harvard, scrive molto, è un economista americano, è un economista liberale e liberista, ed è questo libro, secondo me, che è un libro di un certo rilievo, cioè sono 440 pagine, è molto utile perché consente da una parte a chi non conosce troppo bene Keynes, non ha letto la teoria generale eccetera eccetera, di riprendere innanzitutto con affermazioni secche fedelissimamente riportate di Keynes che cosa Keynes pensava, e poi propone rispetto a ciascuno di questi punti del pensiero keynesiano una dura, a volte feroce e da me praticamente quasi sempre condivisa critica. Allora, io do per scontato che il nostro pubblico, per così dire, conosca abbastanza bene le tesi di Keynes, tuttavia forse è il caso di ricordarne qualcuna. In generale Keynes sostiene che il capitalismo ha un difetto di fondo, questo difetto di fondo è l'eccesso di risparmio, la morigeratezza. Il problema sono i consumi, bisogna sempre sostenere i consumi, l'eccesso di risparmio è un errore. In questo eccesso di risparmio ha un ruolo fondamentale il fatto che il mercato sia profondamente instabile nelle sue scelte e in sé e per sé, e da questo punto di vista, quando è instabile, il compito degli stati, il compito dei regolatori monetari è quello innanzitutto di tenere i tassi di interesse molto più bassi di quanto tendano ad essere. Keynes dice, non c'è mai una buona spiegazione del perché debbano essere così alti in lunghi tratti della storia del mondo, ed è questo che spiega perché poi si è faticato così tanto a uscire dalla miseria. Quindi il regolatore monetario e gli stati devono tenere il tasso molto basso. Quando è basso e ancora non basta per la piena occupazione, bisogna inventarsi politiche monetarie ulteriori, come puntualmente si è fatto, perché sia ancora più basso e l'offerta monetaria sul mercato sia ancora più alta. E quello che conta è che non deve mai essere poi volta al risparmio, ma sempre prioritariamente ai consumi, e a questo ci deve pensare lo Stato. Quindi lo Stato deve sostenere la domanda, lo Stato deve avere un ruolo molto attivo nel tenere bassi tassi e inventarsi cose ulteriori se i bassi tassi non bastano. Lo Stato si deve ovviamente occupare del bilancio pubblico e delle tasse, lo Stato si deve ovviamente occupare di regolamentare molto il mercato, mercati finanziari, che sono un gambling, una speculazione pura o quasi nei confronti di Keynes, che molte volte si bruciò le dita infatti per queste sue convinzioni. E in tutto questo, quindi, come immaginate, lo Stato, sempre ammesso che questa mia sintesi tecnica possa bastare, è una vera risposta a quasi tutti i problemi, per così dire. Naturalmente la cosa di fondo è che Keynes non ha mai sostenuto che il deficit pubblico dovesse essere sempre permanentemente mantenuto. La sua teoria più ortodossa sostiene che quando le cose vanno bene il deficit va riequilibrato, e quando vanno male che bisogna sostenere la domanda attraverso il deficit. Tendenzialmente i politici l'hanno adottato naturalmente sul fatto che bisogna fare deficit sempre. Ecco, questo è il punto di fondo su cui ci si può dividere o meno ulteriormente. Comunque, di fronte a questa bella lezione consegnataci dal passato, che in Europa è molto meno discussa ancora che negli Stati Uniti, in Europa diciamo siamo orientamenti di pensiero che nella scissa destra-sinistra si situano in una forbice molto diversificata, tendono molto spesso a convergere dicendo che Keynes è una delle grandi eredità sui quali non si può che concordare. Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone invece il dibattito è molto più aperto che da noi, e temo che sia molto più aperto da noi non tanto per una questione di storia dell'economia, ma perché nelle università come nella politica è molto più fair, molto più giusto, considerato giusto, dividersi e polemizzare molto fortemente a proposito di questa roba. Lo Stato, che da noi invece per la nostra storia recente è stato unitario, è un feticcio, un tabù. Tutti quando dicono Stato si impastano la bocca come stessero parlando di un'etica superiore, e poi invece quando parliamo dello Stato così come concretamente funziona, gli esempi che vi facciamo ogni giorno, vediamo che lo Stato è chi lo amministra pro tempore, impastato di tutti i suoi errori, velato di tutte le sue ipocrisie, ladro come sono ladri gli uomini. E questo è il punto di fondo, con la differenza che gli ordinamenti scritti da uomini ladri tendono a essere ladri asintoticamente, perché per così dire accumulano tutti i difetti di coloro che pro tempore si susseguono, non avendo molto interesse chi viene dopo a smentire gli effetti di massimizzazione di cassa di chi era venuto prima. Ora, gli ospiti di oggi, che sono naturalmente sostenitori di opinioni diverse, abbiamo Emiliano Brancaccio, il professore che insegna economia politica all'Università del Sannio. Buongiorno professor Brancaccio. Abbiamo il professor Carlo Lottieri, che è insegnante dottore dello Stato all'Università di Siena e che è un cofondatore dell'Istituto Bruno Leoni, che ha editato il libro di Hunter Lewis che ci dà lo spunto per oggi. Buongiorno professor Lottieri. Buongiorno. Allora, cominciamo. Professor Brancaccio, è ovvio che io comincio da lei, perché io ho fatto già i miei 10 minuti di pistolotto, ma mi darà atto che l'ho fatto come mero inquadramento. Lei è firmatario, insomma, è ben conosciuto nel dibattito pubblico, di petizioni e posizioni che si rifanno esplicitamente, insomma, senza entrare in cose troppo tecniche, ma ha un'impostazione per la quale insomma Keynes è la soluzione, non è certo il problema. E se dovesse dire dal suo punto di vista, in che cosa invece noi non ne seguiamo abbastanza forse la lezione, in che cosa i critici di Keynes, chi pubblica libracci come questo, tutti gli errori di Keynes, in che cosa si ostinano a non capire invece che è più una soluzione che un problema? Che ci dice Brancaccio? Ma guardi, io poiché ho avuto modo di leggere il libro che lei ha presentato, Insomma, non ne condivido evidentemente l'impianto e lo considero sbagliato. Tuttavia, io parto da qualche merito che questo libro ha, nel senso che in primo luogo, e poi arrivo alla sua domanda, nel senso che in primo luogo questo libro ha il merito di essere partigiano, assume una posizione precisa di parte, una tesi, e la difende fino in fondo. E secondo me noi, contrariamente a quel che solitamente si pensa, noi oggi abbiamo bisogno di posizioni di parte proprio per avvicinarci ad una discussione che ci consenta di capire meglio come funziona la realtà economica. Quindi, come dire, la partigianeria di questo libro io la sposo, benché mi trovi in posizione assolutamente opposta a quella del... Inciso senza interromperlo, le do subito la parola. Sono d'accordo, perché non c'è niente di peggio nella vulgata pubblica, diciamo, per chi non si occupa di economia professionalmente, che assistere a questa specie di cosa per cui l'economia è una grande chiesa di cose, di principi e riti condivisi. No, non è così, e sono d'accordo con il professor Brancaccio che è meglio dichiarare il proprio punto di vista. Ecco, anche perché se gli intellettuali cominciano a traccheggiare, poi alla fine non si capisce più niente. Ecco, gli intellettuali dovrebbero quantomeno avere la responsabilità di prendere una posizione, poi evidentemente di difenderla, di cambiare anche idea se necessario, ma comunque di difendere una tesi ben definita. Detto questo, c'è anche un altro merito, direi. Un altro merito è che questo libro forse critica una idea, diciamo, di un certo idealismo utopico che non credo caratterizzasse Keynes, che era uomo smaliziatissimo dal punto di vista politico, ma che forse ha caratterizzato un certo keynesismo un po' ingenuo, quello secondo cui in sostanza lo Stato può essere visto come una sorta di leviatano onnisciente, onnipotente, altruista. In realtà, come diciamo, prima si diceva, lo Stato, come dire, riflette anche le pressioni che vengono esercitate di volta in volta dai gruppi di interesse egemoni e in qualche modo, che in qualche modo cercano poi di piegare l'azione dello Stato ai propri fini. Quindi, su questo mi consentirà, professore, che in Italia forse più che altrove, ecco, perché qui... io credo che forse, diciamo, non so se poi magari valutiamo se l'Italia abbia una sua specificità. Credo in generale che questa sia una lezione che possiamo condividere tutti e che credo debbano condividere sia i liberisti che gli interventisti. Se posso permettermi, questa è una lezione in un certo senso marxista. E siamo al secondo punto condiviso, inizio a preoccuparmi. Ecco, benissimo, quindi siamo d'accordo su questi punti. Adesso vengo ai punti sui quali io sono in totale aperto dissenso con questo libro, con il libro di Lewis e anche con la prefazione di Forte, che cerca di correggere un po' alcuni aspetti del libro, ma secondo me non ci riesce. Mi spiego. Il libro cerca di attaccare le idee chiave di Keynes, ma alla fine io credo che non vi riesca. Non ci riesce ad attaccare alcuni punti cardine del pensiero di Keynes con i quali dobbiamo fare i conti e che io credo siano dei grandi insegnamenti sul funzionamento effettivo del sistema economico. Faccio due esempi, diciamo, delle idee centrali di Keynes che mi pare che il libro non riesca a contestare. La prima è evidentemente il principio della domanda effettiva, cioè questa idea secondo cui le cosiddette forze del mercato, lasciate a se stesse, non sono in grado di garantire il pieno utilizzo delle capacità produttive, in particolare non sono in grado di garantire l'assorbimento dei disoccupati, non sono in grado di farlo da sole. In secondo luogo, in particolare, non è possibile attraverso una riduzione dei salari, siano essi monetari, siano essi reali, generare il riassorbimento dei disoccupati che sono stati espulsi dal processo produttivo a causa di una crisi. Ecco, queste sono alcune delle idee chiave di Keynes rispetto alle quali mi pare che il libro non riesca a fornire argomenti convincenti per smentirle e per contrastarle. Poi ovviamente vorrei che fosse chiaro un punto, perché secondo me qui c'è un equivoco. Se siamo d'accordo sul fatto che questa crisi presenta, la crisi che è scoppiata, esplosa nel 2007-2008, presenta come sua, tra le sue caratteristiche il fatto che si è generata una potente iniezione di liquidità che ha fatto sì che venissero intensificati i rapporti di credito e debito privati, e che questo ha fatto sì che poi si generasse una gigantesca bolla speculativa. Che è l'accusa che, per esempio, noi, diciamo, noi che siamo sostenitori di una politica monetaria, molto piuttosto facciamo ad Alan Greenspan, che ha posto le premesse, come dice lei, esattamente quello che è successo. È se chiaro. È vero questo. Ecco, allora il punto fondamentale è che se si è determinato tutto questo e si è ritenuto per un certo tempo che questo meccanismo di bolla in bolla potesse poi garantire la crescita economica e lo sviluppo, ebbene evidentemente a me pare che questa sia da un lato una prova delle tesi di Keynes, e cioè il fatto che il sistema ha bisogno sempre di una fonte di domanda, cioè da qualche parte il sistema necessita di una spinta sulla domanda e che non può fare a meno di essa, e sotto questo aspetto io critico, diciamo, le posizioni liberiste che talvolta, come dire, evadono questo problema della fonte di domanda. Tuttavia, francamente, attribuire a Keynes, che era un nemico acerrimo di Wall Street, questa specifica modalità di spingere sulla domanda, francamente mi sembra una caricatura del pensiero di Keynes, perché Keynes assolutamente non aveva in mente questa modalità di sviluppo del sistema fondata sulla generazione continua di bolle speculative. Ecco, questo francamente a Keynes proprio non lo possiamo attribuire. Allora, naturalmente noi nel resto della puntata dobbiamo stare anche attenti dopo questa lunga parte iniziale in cui parliamo di pura teoria, perché poi gli ascoltatori dicono: ma di che cosa stanno parlando? Allora, faccio due esempi concreti prima di lanciare la pubblicità e poi presentarvi i prossimi due ospiti. Due esempi concreti. Se si pensa che la flessibilità dei salari non sia un rimedio né nei momenti in cui l'economia va bene né nei momenti in cui l'economia va male, e cioè si sostiene, come faceva Keynes, che la discrezionalità della politica monetaria è sempre, o quasi, ma quasi sempre preferibile alla flessibilità della politica dei salari, voi capirete che da questo se ne possono discendere due posizioni molto diverse in merito alla richiesta di Marchionne di fare Fabbrica Italia oppure no. Perché se siete rigorosamente keynesiani, dice: no, tu stai confondendo un problema, il tuo problema è come rispondere a una domanda potenziale che può crescere, e lo devi fare non diminuendo uno dei fattori della domanda, e cioè le retribuzioni dei tuoi dipendenti. Poi, come se la flessibilità fosse meno retribuzioni, ma questo è un altro punto di vista, perché nel suo caso poi viene più salario detassato, però la flessibilità viene di solito associata a questo. E quindi a quel punto di vista c'è chi dice: no, caro Marchionne, commetti un errore e sarà la politica monetaria più discrezionale a risolvere, a darti i margini. Chi invece la pensa come noi liberisti cattivoni, che diffidano della politica monetaria discrezionale, dice: neanche per idea, la politica monetaria è troppo discrezionale, è sempre un errore, la politica salariale flessibile è sempre o quasi un vantaggio, lo è sicuramente quando le cose vanno male, e così via. Cioè, su tutti i maggiori punti aperti di come risolvere, come rispondere alla crisi, questo dibattito, Keynes sì, Keynes no, è un dibattito che dà risposte diverse rispetto ai problemi aperti. Per esempio, sostenere, come giustamente ricordava adesso il professor Brancaccia, il problema della domanda effettiva come un faro, un punto di riferimento permanente per interpretare non solo i cicli, ma per dare una risposta alla tendenziale instabilità del mercato. Se pensate questo di fronte a ciò da cui proveniamo, e cioè la crisi di un modello di intermediazione finanziaria ad alta leva e bassa congruità patrimoniale, avreste dovuto fare come si è sempre fatto, evitare a quel punto che ci fosse fallimenti che riallineassero i valori di libro e riallineassero verso il basso i valori degli attivi patrimoniali, ma del conto economico, perché chi la pensa come noi pensa che alle bolle si risponde anche con sani riallineamenti verso il basso, mentre invece se sostenete il principio della domanda effettiva come faro keynesiano, allora dovreste dire: no, per carità, mai fallimenti, e dobbiamo continuare a sostenere il ciclo, continuando a sostenerlo naturalmente con enorme debito pubblico aggiuntivo, più tasse, eccetera eccetera. Quindi, come vedete, su tutti i punti concreti della vostra vita quotidiana, questo è un dibattito molto molto molto pesante, anche se naturalmente gli economisti tendono a essere un po' tecnicamente pallosi, e abbiamo commesso anche noi questo errore, ma nella seconda parte vedrete, dopo la pubblicità, ci divertiremo. Allora, parliamo del lascito divisivo in politica ancora oggi di Keynes, quel Keynes che di cui, se leggete per esempio gli appunti nel 1920, quando stava scrivendo Religion and the Rise of Capitalism di Toney, trovate che lui prendeva appunti del tipo: il capitalismo individualista e le prassi economiche che lo contraddistinguono risalgono indubitabilmente a Babilonia. Se rileggete un bellissimo saggio, peraltro, che scrisse nel 1925, Short View of Russia, leggerete che scriveva che una delle ragioni non secondarie della decadenza intellettuale del capitalismo individualista sta nel principio ereditato dal feudalesimo, addirittura scriveva Keynes, dal feudalesimo, il principio ereditario nel controllo della ricchezza e dell'impresa. Per questo, sosteneva, il capitalismo è intrinsecamente debole e stupido. Perché? Perché è troppo dominato dagli uomini della cosiddetta terza generazione, cioè quelli che dilapidano il capitale e l'azienda ereditati, e sono giudizi sferzanti sui quali ancora oggi ci si divide, se uno pensa al microcapitalismo familiare italiano, ovviamente. Oppure nel 1934, quando in un saggio sul New Statesman, criticando Stalin nel 1934, in risposta a John Bernard Shaw, Keynes scriveva che loro avevano il difetto di guardare indietro a ciò che il capitalismo era, Stalin e John Bernard Shaw, non a che cosa è diventato, ma il suo succo però è che era diventato qualcosa di peggio di quello che Shaw e Stalin stesso lo criticavano. Quindi un uomo corrosivo, un uomo che cambiava spesso idea, un uomo che non era affatto un economista formale di formazione, un uomo che scrive un saggio sulla teoria della probabilità che cambia l'impostazione sulla teoria della probabilità e nella distinzione tra il rischio e l'incertezza, che anche quello però non era un saggio formale, e che poi scrive un libro, La teoria generale, in cui ha la presunzione, che viene accettata e sfonda tutte le porte e le pareti, di cambiare, di sovvertire qualunque teoria economica. Un grande bluff secondo alcuni, un uomo geniale, contraddittorio, vanitoso e comunque non troppo ascoltato dai politici. Forse il più del suo successo si deve al fatto di avere capito che i danni di guerra, la fine della prima guerra mondiale, preparavano la nuova guerra, e su questo in effetti non avergli dato retta fu un grave errore. Allora, sentiamo come la pensano altri due ospiti. Abbiamo appunto Carlo Lottieri, si è aggiunto Alberto Pera, che è stato segretario generale dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, oggi sta in un grande studio, lo studio Gianni Origoni Grippo e Partners, e saluto anche Alberto Pera, buongiorno. Ciao Oscar. Allora, Alberto, dovessi dire tu quanto è vivo e quanto è morto l'eredità di Keynes e quanto i governi gli danno retta, se fanno bene o fanno male a dargli retta, che cosa diresti, parlando un po' anche del nostro paese, dell'Europa? Ma è un problema storicamente per me è interessante, perché io non sono tifoso, quindi non sono per la Roma o per la Lazio, e quindi non sono per Keynes o per Hayek. Quando cominciai a interessarmi di economia in Italia, la dottrina imperante era il marxismo, quindi Keynes sembrava una luce, diciamo, era la visione keynesiana delle compatibilità. Cioè era il massimo di liberale che ci si poteva permettere. Era il massimo di liberale che ci si poteva permettere, e questo vuol dire che poi la valutazione delle teorie va anche vista in relazione ai tempi. E questo è particolarmente vero, credo, per Keynes, perché Keynes, giustamente, in questo libro che ha pubblicato l'Istituto Buono Leoni, lo si mette in rilievo, aveva un carattere particolare, doveva essere una persona straordinaria. Lui e la sua idea era che bisognava gettare al vento pensieri, poi casomai, questo era il mestiere dell'economista, lo dice quando commenta la vita di Givens e la confronta a quella di Marshall, e dice, beh, Givens aveva scoperto l'utilità marginale, scrisse dei libretti, ma divenne famoso e fece una cosa importante per questo. E così io credo abbia scritto quello che ha scritto in relazione a come sentiva forse l'esigenza del tempo. La General Theory ha molte cose nuove, cose invece che ha ripreso da Wiesel, diciamo, dalla tradizione monetaria. L'idea più importante probabilmente è quella della volatilità dell'investimento, l'idea che l'investimento è soggetto alle aspettative, che le aspettative sono variabili, e l'idea del fixed price, poi in fondo che i salari sono rigidi. Ma questo è qualche cosa che andava molto bene probabilmente in quel momento, rispondeva a un problema dell'epoca. Quello che abbiamo derivato da lui sono due cose: negli anni 50 e 60, diciamo, il controllo della domanda aggregata, e quindi le politiche di stabilizzazione. Nell'ultimo decennio, in fondo, l'idea invece dei tassi di interesse bassi, che che è un'idea che paradossalmente è stata seguita dal più monetarista dei governatori della Federal Reserve, cioè da Greenspan, perché adesso noi guardiamo a cosa è successo negli ultimi due anni, ma quello che è successo negli ultimi due anni, cioè la crisi finanziaria, gli interventi di sostegno che sono stati venduti o giustificati con la visione keynesiana, in realtà sono il portato di politiche degli ultimi 10 anni o dei 10 anni precedenti di tassi di interesse molto bassi. Ora, di fronte a queste due diverse eredità che rispecchiano i tempi diversi, perché giustamente secondo me Alberto Pera ha aggiunto questo elemento, in realtà l'eredità di Keynes è molto filtrata dagli atteggiamenti dominanti politici, intellettuali, culturali dei diversi tempi, dei diversi decenni che si sono succeduti, e quindi ci invita a riflettere sul fatto che negli ultimi 10 anni forse anche in Italia si è aperto di più spazio per chi, come il sottoscritto, è un minoritario seguace invece del filone Hayekiano. E quindi dice giustamente Alberto, attenti però, perché poi in realtà le parti keynesianamente più monetarie le hanno adottate più quelle che venivano dal versante vostro che dal versante keynesiano, e sarebbe un bel dibattito su perché, come Alan Greenspan si è convinto negli anni 2000-2005 di avere scoperto un nuovo paradigma, però non è questo il caso per farlo. Il problema è, restiamo fermi a come i governi hanno dato risposte alla crisi, dicendo non faremo più gli errori degli anni 30, quando troppo presto si tentò di uscire dall'eccesso di deficit del debito pubblico. Noi sosterremo la domanda perché ce l'ha insegnato John Maynard, e questo è praticamente la grande strada su cui gli americani e molti governi europei si sono messi. Carlo Lottieri, che ci dice invece del libro e anche di questa lettura di Keynes alla luce dei tempi diversi e delle influenze culturali diverse? Ma io credo che Keynes sia stato indubbiamente un genio da tanti punti di vista, ma soprattutto perché ha interpretato meglio di altri economisti il Novecento, quale secolo del trionfo dello Stato, dell'apoteosi del potere, E quindi in qualche modo ha detto ai politici ciò che volevano sentirsi dire, e poi ovviamente anche loro hanno interpretato alla propria maniera, in qualche caso indubbiamente. E la tesi forte che c'è in Keynes è che i mercati sono imperfetti, una tesi peraltro condivisa da tutti i liberisti sensati, perché gli uomini sono imperfetti e di conseguenza i mercati sono imperfetti. Solo che sottesa a questa prima tesi ce n'è un'altra, e la tesi è che è bene che allora il governo intervenga, senza dimenticare che anche gli uomini di governo sono imperfetti, e che la conseguenza di tutto ciò è avere un'economia autoritaria con tassi di interesse fissati politicamente, investimenti pubblici, e quindi con tutti i problemi giuridici che ne derivano, perché nell'universo keynesiano è evidente che la proprietà privata in senso forte, i diritti individuali in senso forte non esistono più. Abbiamo una costante programmazione della vita economica, con enormi problemi non solo di tipo morale, perché chiaramente abbiamo una costante redistribuzione dai deboli politicamente ai forti politicamente, ma abbiamo anche una serie di problemi strettamente economici, su cui appunto Hayek insistette molto. C'è un problema di informazione, l'informazione dispersa, i governanti non hanno le buone informazioni che invece il mercato sa utilizzare, non perfettamente, ma meglio. E poi c'è un problema ulteriore, che è la distribuzione dei prezzi di mercato, che sono appunto invece strumenti fondamentali, e in larga misura anche tutte le riflessioni che siamo costretti oggi a fare sulle bolle, sui tassi di interesse artificiosamente tenuti bassi, discendono dal fatto che il costo del denaro non è fissato al mercato, ma appunto abbiamo delle tariffe pubbliche, e come sempre a seguito delle tariffe abbiamo enormi problemi, Allora sentiamo qualche ascoltatore come la pensa su questo dibattito, che noi stiamo oggi tenendo, ripeto, in una maniera un po' aerea, ma ogni tanto ci vuole anche un po' di sano confronto che non sia esclusivamente sulla polvere del campo di battaglia, perché ricordate, la polvere era ciò che Ares, Marte, usava sul campo di battaglia per accecare i combattenti, e talvolta bisogna tirarsene un po' fuori dal vortice della polvere, perché si vede meglio, sia per così dire il campo di battaglia, io dico semplicemente il campo in cui si confrontano le idee, e facendo un passo indietro e facendo i sanamente partigiani, la penso come Milano Brancaccio, ma anche con l'occhio freddo, si vede forse un po' meglio le questioni di lungo periodo su cui si torna a commettere errori. Talvolta proprio coloro, i politici, che hanno uno sguardo in definitiva sempre necessariamente appiattito sul breve periodo, perché hanno il problema del consenso, i politici dicono noi non commetteremo più gli errori del passato, ma siccome hanno lo sguardo schiacciato sul consenso, bisogna che noi da fuori sappiamo vederli nel lungo periodo, su cui invece gli errori o comunque risposte condizionate analoghe tendono a essere drammaticamente seriali, e questo fa parte del fatto che siamo imperfetti. Sentiamo come la pensa per esempio Alessandro da Milano. Che ci dice Alessandro? Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Guardi, io sono sempre in linea con il suo modo di interpretare le varie considerazioni in una maniera concreta. Quindi ha una vita complicata, però detto questo... Suggerendo appunto, ho ascoltato con piacere le considerazioni su questo aspetto, chiamiamolo teorico o intellettuale, come si potrebbe definire, su quelle che possono essere delle analisi e dei rimedi. Ma io però di rimedi non è che ne sento parlare in termini concreti. Ho una mia idea personale che segue molto da vicino quello che lei... ad esempio, stiamo parlando all'interno di questa crisi di provvedimenti che possono facilitare e risolvere determinate problematiche, come per esempio quella dell'occupazione. Ma è possibile che i nostri governanti oggi non facciano qualche cosa per le aziende? No. Un'azienda assume dei nuovi dipendenti, sì, e non ci sono sgravi fiscali. Un'azienda mantiene all'interno all'interno della propria azienda i profitti reinvestendoli e viene comunque tassata. Alessandro, hai detto chiaro, qui il problema adesso ci dovremmo dividere, lo faremo dando le risposte con Brancaccio eccetera. Lo Stato deve incentivare ad hoc questa o quella misura, o lo Stato deve avere semplicemente un basso livello di spesa pubblica reale, basse tasse che consentono poi a tutti di scegliere meglio qual è l'offerta marginale e la domanda marginale di lavoro? Sono due strade diverse. Noi siamo abituati a pensare, come hai chiesto anche tu, agli incentivi, alle cose discrezionali, fatmi questo per questo, e questo lo si fa quando si ha oltretutto una intermediazione pubblica al reddito molto elevata. Ci ha fatto bene? Bella domanda. Può far bene quando bisogna fare accumulazione primaria di un paese che era in ritardo industriale, che è stato così nella storia italiana della prima metà del Novecento, l'uscita, le premesse dell'industrializzazione come l'uscita della Seconda Guerra Mondiale. Ma dopo ci ha fatto bene? Io direi di no. Poi sentiamo il professor Brancaccio. Sentiamo come la pensa Claudio da Prato. Ma io rimarrei esclusivamente sul discorso, sì, di Keynes, per dire, a me Keynes quando l'ascolto mi fa venire mal di stomaco, semplicemente perché, così come io non posso cantare Verdi tutti i giorni, lo stesso non posso applicare Keynes sempre, perché Keynes nasce in una realtà diversa da quella d'oggi. La realtà di Keynes è una realtà statunitense in sviluppo e soprattutto con una potenzialità fondamentale, cioè di scaricare le proprie crisi sugli altri, perché gli Stati Uniti erano la potenza egemone. Tutto questo non è più, quindi applicare Keynes semplicemente al mondo, un mondo globalizzato in cui ci sono poli di interesse e poli di potenza diversificati, soprattutto in un consumismo che probabilmente non era quello previsto da Keynes, ci porta fuori strada. Cioè, il vero problema di fondo oggi è che, non esistendo più le potenze, diciamo, la capacità di gestire la crisi, le crisi sono globali. C'è una capacità di gestire le crisi in maniera globale? No. O troviamo la soluzione in maniera globale o non si trova niente. Grazie Claudio, in sintesi ogni tempo ha il suo giusto pensiero, e le coordinate e le condizioni della crescita globale, il motore completamente diverso alla crescita mondiale del dopo WTO, rende l'analisi apprezzabile, ma storicamente oramai da libro e non da manuale quotidiano. Questa è la tesi Claudio. Intanto ora le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo col professor Brancaccio. Professor Brancaccio, se io le dicessi che il difetto che a me sembra dei politici italiani, di là che non leggono abbastanza, forse non leggono quasi per niente più rispetto a quelli di un tempo, ai padri fondatori, che nella passione del dibattito politico-culturale e di grandi letture, perché all'epoca loro avevano letto Keynes quando il fascismo praticamente lo proibiva e lo inibiva, però insomma avevano diversi criteri etici, comunque la si pensasse rispetto a loro. Ma detto questo, se io le dicessi che il problema è che qui sono tutti keynesiani sia a sinistra che a destra, cioè quelli che promettono la rivoluzione fiscale a destra in Italia, chiacchiera, perché poi hanno fatto spesa pubblica esattamente e discrezionale, e anzi discrezionalissima, esattamente come quelli dell'altra parte, lei direbbe che ho ragione o che sto come al solito forzando la situazione? Guardi, io direi che saremmo tutti più contenti, io credo anche lei, se davvero come dire, il ceto politico e le rappresentanze politiche di questo paese avessero idea di quel che stiamo dicendo oggi. Sono abbastanza d'accordo. Ecco, nel senso che secondo me purtroppo siamo messi male. Poi se vi sia stato un keynesismo involontario, diciamo, nella politica economica di questo paese, io ho il sospetto che per poter rintracciare elementi di keynesismo più o meno criminale, perché guardi che esiste anche il keynesismo criminale, come talvolta viene detto da Marcello De Cecco. Esatto. Ecco, però per poter individuare tracce di keynesismo, poi buono o criminale bisognerà discuterne, ma secondo me dobbiamo andare piuttosto indietro nel tempo. In realtà le politiche economiche degli ultimi anni sono state politiche fortemente restrittive, finalizzate all'abbattimento del debito pubblico, e nemmeno poi alla fine vi sono riusciti ad abbattere il debito pubblico. Ma qui entreremo in una discussione, come dire, molto, molto nostrana, molto nostra. Io mi permetto di fare questa osservazione di carattere generale, ma che credo che vada poi al nocciolo del problema. Quanto Keynes c'è? C'è Keynes oggi? Ecco, io direi che non c'è. Nel senso che non c'è in Europa, e secondo me l'Europa si sta facendo del male proprio perché Keynes non c'è. Ma Keynes non c'è credo nemmeno negli Stati Uniti, perché vorrei chiarire una questione. Non è di Keynes l'idea secondo cui si può trainare l'economia attraverso indebitamento privato, bolle speculative e salvataggi bancari. Così come non è di Keynes l'idea secondo cui l'economia, come dire, la spesa pubblica debba servire solo ed esclusivamente ai sussidi di disoccupazione. Di fatto l'idea keynesiana era quella di investimenti pubblici, come no, di consumi collettivi. Come? L'idea magari del Keynes del 39, da cui si può ricavare per esempio la considerazione per cui i salari dovrebbero crescere al ritmo della produttività del lavoro, sono tutte cose che a me pare francamente che non vi sono sicuramente in Europa, ma non mi sembra nemmeno che abbiano caratterizzato la cosiddetta Obamomics, la politica economica di Obama. Allora, Alberto Pera dice a Emiliano Brancaccio, c'è un, per così dire, un keynesismo non keynesiano, fatto semplicemente di riflesso condizionato che i politici preferiscono comunque avere più spesa pubblica discrezionale, però senza utilizzarla, come diceva Keynes. E c'è dall'altra parte un'Europa che poi con una tradizione di welfare, di spesa pubblica pesante, detto questo, quando poi va in crisi dopo la crisi greca, non riesce davvero a fare keynesismo, cioè l'idea degli eurobond, cioè di avere un mercato del debito pubblico condiviso per gli investimenti, come diceva Keynes. Che dice rispetto a queste considerazioni Alberto Pena? Ma io tornerei un attimino indietro, cioè fermo restando che sono d'accordo con il professor Brancaccio, se vogliamo il residuo che è rimasto nel nostro paese più solido della visione di Keynes era il fatto che siccome Keynes si preoccupava del livello di attività e ragionava in una logica di salari fissi, non si preoccupava poi tutto sommato tanto del funzionamento dei mercati, non si preoccupava tanto della flessibilità del mercato del lavoro, perché non era il problema di allora, anzi era il problema contro cui, diciamo, che lui vedeva come quello che avrebbe reso più difficile l'uscita dalla crisi allora. Allora questa visione, diciamo, del modello economico monosettoriale, la scarsa, l'idea dei salari come, diciamo, rigidi e la scarsa attenzione alle evoluzioni, quindi del che il mercato può avere, le determinanti degli investimenti, della crescita, bene, questo è, a me sembra, il problema che non è, che è un problema europeo, ma è soprattutto un problema di alcuni paesi europei, ed è il problema, diciamo, dei paesi del sud Europa, sì, che si riflette da un lato, diciamo, nella politica che si gabella come keynesiana, ma che fondamentalmente è una politica clientelare, clientelare intesa come di soddisfacimento di certi gruppi di interessi nella pratica della spesa pubblica, e dall'altra parte invece nel non perseguire politiche di flessibilità che tra l'altro paradossalmente dovrebbero essere favoriti da un welfare state efficiente, perché poi alla fine la differenza della situazione di Keynes, diciamo, del 36 39 e la situazione di oggi è che in alcuni, diciamo, che noi abbiamo una rete di welfare state che tutto sommato dovrebbe consentire politiche di flessibilizzazione, no? Però se noi ragioniamo allora sulle politiche degli ultimi 15 anni. In fondo, se noi guardiamo le politiche dei 15 anni in Italia, allora innanzitutto in Europa ci sono dei paesi che tutto sommato questi aggiustamenti li hanno fatti. Se guardiamo i paesi del nord Europa, guardiamo la Germania, guardiamo la Svezia, guardiamo i paesi che hanno anche sofferto di più, come i paesi come la Polonia o la Repubblica, i paesi baltici, beh, questi paesi hanno fatto un aggiustamento microeconomico che è quello che non sente ora di crescere molto, perché si sa, hanno avuto una riallocazione dei fattori produttivi e del lavoro. Ci sono paesi come il nostro, come la Grecia ovviamente, ma anche come la Francia, che questo non hanno fatto, perché in fondo se guardiamo gli ultimi 15 anni in Italia vediamo che ci sono stati 4 o 5 anni, in fondo gli anni dei governi tecnici, tutto sommato, in cui si sono fatti alcuni tentativi, ma oggi chi parla più di politiche di flessibilizzazione del mercato del lavoro, ne parla Chino e Marchionne, che però passano proprio non proprio esattamente come due capaci di interpretare la reazione maggioritaria, visto che Marchionne viene considerato un provocatore e Chino non va per la maggiore neanche nella sua parte. Allora a me tocca concludere dicendo una cosa: c'è in definitiva uno dei tanti punti su cui il dibattito è aperto, e a me questi dibattiti come oggi con il professor Brancaccio, con il professor Lottieri piacciono, perché questi sono i grandi punti di fondo che ci trasciniamo dal secolo che abbiamo alle spalle. Nel 1934 Keynes ha scritto un articolo che era per una rivista popolare Red Book, e questo articolo è in sintesi uno dei punti su cui ancora quelli appassionati come noi a queste questioni litigano, perché il titolo che gli avevano chiesto di sviluppare era: ma l'America può innescare la ripresa economica a suon di spesa pubblica? E la risposta che dava Keynes in questo articolo divulgativo, le due frasi erano la sintesi estrema di ciò su cui ancora stiamo questionando, perché lui iniziava l'articolo dicendo: certo, è ovvio, dice, bisogna metterselo in testa, ciò che rende povero un uomo può rendere ricca una nazione. Allora, ciò che rende povero un uomo, cioè l'eccesso di debito, può invece, con tanto debito pubblico, rendere ricca una nazione. Abbiamo scoperto che non è vero questa cosa, questo resta il primo punto di vista finale. E le politiche di flessibilità e le politiche di rigore pubblico, fare come in Germania, per capirci, senza per questo credere che il mondo possa andare avanti col mercantilismo unilaterale dell'export, ma fare come in Germania, rigore pubblico e produttività, a me continua a sembrare la risposta buona, e ciò su cui il cattivo Keynes, il keynesismo inconsapevole, un po' anche criminale, come ha detto Brancaccio, ecco, quella è una cattiva risposta. Forse il buon Keynes, avendo letto Keynes, è preferibile a dire di essere keynesiani senza averlo letto, e questa è la conclusione. Grazie a tutti, appuntamento a domani, linea al Giornale Radio.